Abbiamo coinvolto i firmatari che hanno deciso appunto di aderire e di quindi di partecipare alla costruzione della marcia del 17 maggio in occasione dell'anniversario dell'alluvione. La risposta appunto all'appello è stata estremamente positiva. Ci sono più di 40 firmatari tra realtà ambientaliste, comitati, associazioni studentesche universitarie che condividono la volontà sia di ricordare tutte le vite spezzate da quell'evento traumatico e catastrofe che è stata l'alluvione, sia però anche di puntare il dito contro i responsabili di questa alluvione, che sono in primis l'amministrazione della regione, nonostante i tentativi di smarcarsi diciamo da queste stesse responsabilità puntando il dito soltanto contro il governo. E lo vediamo con oggi anche Bonaccini che appunto dopo mesi di lacrime da coccodrillo adesso addirittura si candida alle europee abbandonando definitivamente i territori emiliano-romagnoli. E parliamo di responsabilità perché la vastità delle conseguenze catastrofiche dell'alluvione sono dovute non soltanto all'alluvione in sé ma da altri elementi come appunto il consumo di suolo e la cementificazione, per cui la nostra regione la terza in Italia, la costruzione irresponsabile sugli argini dei fiumi che appunto sempre diciamo fa parte del consumo di suolo ma è stata causa di ingenti danni a tantissimi comuni della regione, e poi ovviamente il fatto di non mettere alcun freno all'alzamento delle temperature per il cambiamento climatico che come sappiamo provoca eventi climatici estremi come lo è stata l'alluvione. Quindi per tutte queste ragioni appunto pensiamo che per come è stata amministrata negli ultimi 20 anni la regione non si sia, nonostante appunto i finti obiettivi di facciata posti minimamente il problema, ma anzi nonostante l'alluvione l'ultimo anno si è continuato su questa stessa strada, e l'abbiamo visto anche soltanto a Bologna dove appunto si terrà la giornata di ricordo e di manifestazione con progetti come quello appunto delle scuole BESTA, e siamo qua diciamo ogni giorno a ricordarlo, del nodo di Rastignano e del passante di mezzo, ma ce ne sono tantissimi altri. Solo nelle ultime settimane abbiamo scoperto anche cosa sta succedendo a Lazzaretto, dove un bellissimo bosco urbano vuole essere abbattuto per appunto ampliare quella che è appunto l'urbanizzazione e l'antropizzazione di un territorio già estremamente urbanizzato e antropizzato già fino al proprio limite.